Dottoressa Serri, vogliamo localizzare il punto? Noi donne, solitamente, no, quando guardiamo una donna magari in costume, in piscina, eccetera, buttiamo l'occhio lì. Sì, e soprattutto si tende a fare paragoni, ma io sono così, ma Sì, ma sono io così sono davvero. così, Allora poi certo. ci si guarda e ci si confronta, certamente. La cellulite può essere legata anche a un edema, cioè a un gonfiore e a ritenzioni di liquidi, ma non solo a quello. Però la ritenzione di liquidi, quello che noi possiamo dire, è che favorisce l'insediarsi della cellulite, perché questo edema rallenta anche il drenaggio e la microcircolazione. Quindi noi dobbiamo favorire tutto quello che favorisce il drenaggio, cioè l'eliminazione dei liquidi intrappolati anche a livello interstiziale e favorire la microcircolazione. Va anche detto che le donne quasi costantemente soffrono di ritenzione idrica e di gonfiore nel periodo che precede il ciclo Sì. mestruale, quindi la famosa tensione premestruale, che si può prevenire per esempio prendendo anche delle sostanze molto naturali, assumere del magnesio, prendere dei dosaggi molto bassi di vitamina B6 e soprattutto anche enzimi antinfiammatori e diuretici, tra questi la bromelina, di cui è ricchissimo l'ananas, L'ananas. per cui io suggerisco molto ananas, iniziare il pasto con una fetta di ananas, prima colazione a base di ananas, aiuta moltissimo anche a sgonfiarsi. E poi, dottoressa Serri, come abbiamo detto precedentemente, una battuta sua che ha avuto grande successo anche sul nostro Facebook, cioè fare molta attività fisica, perché quando il gluteo va su, La cellulite va giù, certamente se noi ci proviamo a guardare, proviamo proprio solamente davanti allo specchio a tirare sul gluteo, si vede che quel bozzettino cellulitico certamente scende. Quindi che cosa serve fare? Fare la muscolatura glutea, camminare in punta di piedi, lavarsi i denti in punta di piedi, fare esercizi che fortifichino i muscoli che poi tirano su le chiappe, insomma, E tanto per non quindi è farsi. diventato il nostro slogan. Quando noi fatichiamo facendo attività fisica, e questo è un consiglio per le amiche, ricordiamoci, è lo slogan della dottoressa Serri: quando la chiappa va su, chiappa o gluteo, la cellulite Va va giù. giù. Aggiungo anche un'altra cosa, lo stress, siccome quando noi siamo sotto stress, le ghiandole cortico-surrenali che lavorano moltissimo, fa produrre sia ormoni cortico-surrenalici come il cortisolo, sia l'ormone antidiuretico. Quindi lo stress fa anche gonfiare. È molto importante non avere situazioni stressanti, ma imparare a farsi fluire le situazioni, cioè a non stressarsi troppo.